Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Ci sono luoghi speciali che più di altri restano nel cuore di chi vi è nato. Sono quei luoghi che rappresentano radici fortissime per l'anima, che vengono evocati nei racconti da un accento particolare, dagli aneddoti, da un piccolo lessico familiare che unisce tutti quelli che vi appartengono. Come l'Emilia, con le sue città di provincia sospese tra la nebbia e la campagna, con le strade di ciottoli e una via, Emilia, appunto, che le attraversa. L'Emilia che sa di Lambrusco e di feste di paese, ma anche di magnifiche città e meraviglie naturali. L'Emilia, che è una terra ricchissima di gusto e ricchissima di talenti. Ma cos'è che rende questi posti così fertili? Forse è merito di una dimensione umana che favorisce la creatività. Senz'altro molto si deve a una lunga tradizione. Modena, Bologna, Reggio Emilia, in pochi chilometri sono nate tantissime canzoni capolavoro. Molte le dobbiamo a quello che all'estero chiamano il cappellaio matto, per via della sua passione per i cappelli. Parliamo di Adelmo Fornaciari, o più semplicemente Zucchero. Quando ricordo quei suoni lì, quando ricordo quei visi, quelle immagini, sto meglio, tutto diventa un po' più tollerante, diventa più caldo e tenero. Sono molti quelli che non se ne sono mai andati, neanche quando è arrivato il successo. Vasco resta zocca, Caterina Caselli non dimentica le balere in cui ha cominciato a cantare, Ligabue rivendica con i suoi libri, i suoi film e le sue canzoni la bellezza dei luoghi intorno a Correggio. In ambito musicale l'elenco è lunghissimo. Sono emiliani Doc, il bolognese Lucio Dalla, Gianni Morandi e il più giovane Cesare Cremonini. Non se n'è mai andato nemmeno il modenese Guccini, che continua a vivere nel vecchio mulino di famiglia. Mi unisce a Zucchero la semplicità tutto sommato è rimasta in queste persone, che è un modo di vedere la vita, un modo di vedere gli amici, un modo di vedere il proprio ambiente che difficilmente viene abbandonato. Si cerca di stare lì dove si è cresciuti, dove le cose sono cominciate a essere un qualche cosa, ecco. E quindi questo, insomma, nessuno di noi è fuggito a Milano o a Roma, ma è rimasto ancorato ai posti che lo hanno prodotto. Ho pensato al suono della domenica. Il suono della domenica era un suono, quando ero piccolo, rarefatto, molto aperto, cristallino, sentivo le campane, i bambini che giocavano. Più di 50 milioni di album venduti in tutto il mondo nel corso di una carriera trentennale. Grandi tour che registrano il sold out pochi giorni dopo l'apertura delle prevendite. Live eventi come quello dell'Arena di Verona che richiamano migliaia di persone. Zucchero è stato il primo artista occidentale a cantare al Cremlino di Mosca dopo la caduta del muro e ha collaborato spesso o regolarmente con alcune delle più grandi star internazionali: Bryan Adams, Jeff Beck, Bono Vox, Ray Charles, Eric Clapton, Peter Gabriel, Sting, solo per fare qualche nome in un elenco lunghissimo. Tutto questo senza mai perdere l'entusiasmo degli inizi e la voglia di ritornare ogni volta a casa. Ma è sempre la solita vecchia storia. Quando sei a casa ti abitui ai ritmi di casa, che sono in campagna, insomma, molto dilatati. Quando sei in tournée tutto deve essere molto preciso, perché alla tal ora devi andare sul palco e 80 persone devono muoversi in sinergia svizzera. Il paese natale di Zucchero è una frazione di Reggio Emilia che si chiama Roncocesi. Qualche piccolo negozio, gli abitanti che si conoscono tutti, i ragazzi che ereditano ancora il nomignolo del padre e con quello vengono chiamati. Si vive con poco. Un pezzo di terra, qualche bottiglione di vino, vestiti fatti in casa e tramandati di generazione in generazione. Se c'è un'occasione importante, al massimo si va in negozio a Reggio, che dista appena 7 chilometri. Non è difficile nemmeno farli a piedi. Adelmo Fornaciari nasce nel 55. La guerra è finita da 10 anni, ma qui non si sente ancora la corsa al consumismo che sta invadendo le grandi città, Milano in testa. La maggior parte delle persone coltiva la terra, anche la famiglia Fornaciari è contadina. Sveglia presto e tutti che aiutano anche dopo la scuola. Come nei racconti di Guareschi, ci sono anche qui un Don Camillo e un Peppone e i punti di riferimento sono sempre gli stessi, l'oratorio e il circolo del PC. Chi frequenta uno di regola non dovrebbe frequentare l'altro, almeno così vorrebbero gli integerrimi di entrambe le parti, ma poi succede che l'amico va a giocare a pallone, e allora anche il figlio del segretario di partito lo segue, e magari senza dire niente a papà, che la prenderebbe malissimo, dice pure un paio di preghiere, per dire «Zucchero sta sempre un po' di qua e un po' di là, più che altro per la compagnia». Io dico sempre, perché essere così semplici quando con un minimo sforzo si può diventare impossibile? Zucchero. È così che la maestra delle elementari chiama questo bambino vivace che non pensa ad altro che al pallone. E da quel momento Adelmo diventa zucchero per tutti. A calcio è molto bravo, davvero dotato. Un giorno, mentre è in campo con i suoi piccoli coetanei, viene notato da un talent scout della Reggiana che siede sugli spalti. Poche settimane dopo, Fornaciari è tesserato come portiere nella squadra dei Pulcini della Reggiana. Intanto scopre la musica. Dove la melodia pura è quella che deve entrare nel cuore della gente senza troppi vestiti o troppe orpelli intorno. È questo che ho fatto. Da Roncocesi a Forte dei Marmi, provincia di Lucca, e poi da Forte dei Marmi ad Avenza, un quartiere di Carrara. Sono diversi i trasferimenti della famiglia Fornaciari durante tutti gli anni 60. Zucchero si iscrive all'ITIS e si diploma perito elettronico. Per divertirsi mette in piedi Le Nuove Luci, un gruppo di ragazzi con cui comincia a esibirsi nelle balere della zona, tra sagre e feste dell'Unità. Sono anni bellissimi, durante i quali Zucchero impara quali sono le cose importanti per chi sogna di fare il musicista. Intanto devi avere una band con cui ti trovi bene, che ci sia una buona energia, questo fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di fare ancora questo mestiere, di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, che magari non canti da tanto tempo. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza, e poi l'idea di lo stimolo di andare in posti anche che non ho mai fatto prima, come l'Australia, come la Sudafrica, come insomma isole che non avrei mai pensato di poter suonare, come le Mauritius, le Reunion Island, Armenia, insomma posti anche belli, esotici, diversi dal solito giro che avevo fatto prima. Insieme al calcio e alla musica, la sua passione sono gli animali. È per questo che decide di iscriversi alla facoltà di veterinaria dell'Università di Bologna. Da 39 esami, li passa alla grande. Ma quando gliene mancano poco più di una decina, tra la sorpresa di tutti, smette. Vuole soltanto suonare la chitarra, per essere precisi. A fargli conoscere questo strumento è stato uno studente americano di colore che studiava con lui. Non solo gli ha insegnato i primi rudimenti, gli ha aperto un mondo fatto di novità che arrivavano dall'Inghilterra, dall'America, Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones. Da una parte c'è la Via Emilia e dall'altra la Route 66. E per i ragazzi come Zucchero e Guccini, tutto quello che parla inglese ha il sapore di futuro. Allora l'America era il mondo, l'America era la meta, era un qualche cosa che tutti sognavamo, perché il cinema era americano, la musica era americana, i libri, la letteratura era americana, insomma. Noi disprezzavamo tutto quello che poteva essere locale, italiano. Me, che sei solo come me, dall'altra parte della strada. Come la maggior parte dei ragazzi in cerca della loro strada musicale, anche Zucchero cambia diversi gruppi. Band che forma con amici, più per divertirsi che per guadagnare, senza disdegnare due lire quando qualcuno li invita a suonare ai matrimoni. Il Duca, il trio Amici del Mare, i Decals. E intanto per campare fa di tutto, dal tornitore al salumiere, perché in casa gli hanno insegnato che non c'è lavoro che non sia dignitoso se fatto con onestà. A Zucchero non piacciono le tipiche canzoni sanremesi che parlano d'amore attraverso le solite melodie. Lo attraggono invece i ritmi che vengono dal delta del Mississippi, quei canti struggenti degli schiavi delle piantagioni che esprimono tutta la loro malinconia nelle note blues. Rhythm and blues, soul, musica black. Quando sente una voce cupa accompagnata dall'armonica, Zucchero sente che è questa la sua strada. Con un piccolo particolare, lui è italiano e in Italia questo genere praticamente non esiste. Io invece ho fatto un genere italiano, sono un cantante italiano, canto in italiano, ma musicalmente attingo da una musica che è nera. All'inizio è tutt'altro che facile. Beh, non solo all'inizio, per la verità. Dopo aver mollato l'università per dedicarsi alla musica e aver fatto 10 anni di gavetta in giro per i locali della provincia, le soddisfazioni per Zucchero stentano ad arrivare. E che proprio non lo capiscono, né il pubblico, né gli addetti ai lavori. Perché scommettere su un ragazzo che fa blues in Italia? Quante porte in faccia, quante speranze disilluse. E quando la firma di un contratto sembra vicina, i produttori ancora ci ripensano. È stato più difficile perché all'inizio il pubblico si chiedeva, ma cioè, un italiano che canta soul, blues o rhythm and blues è un po' strano, no? È come dire, non so, una spaghetteria che fa che fa hot dog, ecco, sarebbe. Siamo alla fine degli anni 70. Zucchero è già un musicista poliedrico e originale, suona chitarra e sax e dopo aver formato i Sugar and Candies inizia anche a scrivere canzoni. Il suo unico grande amore è il blues, ma si rende conto che ai colleghi italiani questo genere non interessa e allora si adegua. Mentre scrive per se stesso pezzi dal sapore R&B, mettendoci anima e corpo, per gli altri compone seguendo strade più convenzionali e più in linea con il gusto italiano. Scrivevo le prime canzoni con la chitarra e la voce, senza le tecnologie, no, che ci sono adesso, i vari sequencer, Pro Tools o Drum Machine. Riciclandosi come autore, Fornaciari compone la musica della canzone Il Gallo, contenuta nell'album del cantautore Rinaldo Del Monte, e scrive Tutto di te per Fred Bongusto. Il cantante Gianni Ravera, storico curatore di varie gare canore, tra cui il Festival di Castrocaro, sente cantare questo giovane di Reggio Emilia e rimane folgorato da un timbro di voce che non ha nessun altro, caldo, roco, particolare. E così gli propone di partecipare proprio al Festival di Castrocaro. I risultati sono promettenti. Zucchero vince, ottiene un contratto con la Polygram e l'anno successivo esordisce al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, presentando però la canzone Una notte che vola via, con la quale giunge in finale. Però ancora una volta, il successo stenta ad arrivare. No, io penso che devi fare del mestiere, devi fare della bottega. Sei un musicista, sono un musicista, credo preparato. Mi metto lì alle 11 di mattina dopo aver fatto colazione, vado lì, ascolto, faccio, guardo, prendo appunti nel mio studio, mi arrovello, mi girano i coglioni, vado fuori. Almeno all'inizio sembra che Zucchero piaccia molto di più come autore che come cantante. Non è un caso che il suo primo magnifico incontro del destino sia un ragazzo per cui scrive, Michele Pecora. Michele Pecora non è molto più giovane di Zucchero, giusto 2 anni. Quando si incontrano per la prima volta sono entrambi giovani, pieni di voglia di fare, curiosi del mondo. Sono anche però molto diversi. Fornaciari con il suo accento emiliano. Pecora, originario di Salerno ma da poco trasferito ad Ancona dopo essersi sposato. Se il primo ha in mente le strade sconfinate d'America con i suoi ritmi blues, il secondo viene da una formazione più tradizionale, si esprime attraverso canoni neomelodici. Ha vinto Castrocaro nel 77 con il brano La mia casa ed è sotto contratto niente meno che con la Warner Bros. Difficile pensare che si piacciano. E invece, colpo di fulmine artistico, Zucchero scrive a quattro mani con Pecora Te ne vai, che spopola al Festival Bar dell'80. E così, mentre gli LP del cantante vanno a ruba, la direzione di Zucchero sembra sempre di più quella dell'autore commerciale. Frustrazione, morale a terra, rassegnazione, quasi. Sono questi i sentimenti che Zucchero prova all'inizio degli anni Ottanta, quando, pur mettendocela tutta, non riesce proprio a sfondare. Scrivere per gli altri gli piace, va bene, ma cantare le proprie canzoni è tutta un'altra cosa. E così, mentre passa un paio di volte inosservato a Sanremo nella sezione giovani, continua la sua personale ricerca musicale, che in Italia sembra non capire nessuno. Ho sperimentato molte strade, dal blues al rhythm and blues, al soul, al gospel, poi ho mescolato anche il gospel con l'opera. Deluso dal contesto artistico italiano, Zucchero nel 1984 vola in California. Basta sognare l'America. È arrivato il momento di andarci per davvero. La destinazione è San Francisco, la città degli hippie e delle battaglie per i diritti civili, che da sempre accoglie bene gli stranieri in cerca di fortuna o magari solo di un'occasione per sentirsi vivi. A dire la verità, Fornaciari ha già un aggancio in America, un amico pronto a ospitarlo e che gli ha promesso di farlo suonare nel suo locale. È in questo periodo che lo stile del Cappellaio Matto acquisisce l'impronta internazionale che riconosciamo anche oggi. La contaminazione è all'ordine del giorno a Frisco, dove Zucchero si ferma. Nei locali si suona tutti insieme e le jam session interminabili coinvolgono artisti di diversa provenienza a cui interessa solo una cosa: far divertire il pubblico. L'avventura dura un po', tra sbronze, ragazze, poesia. Poi si torna a casa. Dall'Emilia si può stare lontani per del tempo, ma prima o poi il richiamo delle radici è troppo forte. Bisogna tornare a casa. Però sto molto attento a non farmela diventare, come dire, troppo noiosa, perché sennò, se non mi diverto io, non riesco, il pubblico lo avverte, e se non provo, se non godo io, non gode neanche il pubblico. I magnifici destini. Ai magnifici destini siamo all'inizio degli anni Ottanta. Zucchero, al secolo Adelmo Fornaciari, sta tentando disperatamente di farsi strada nel mondo della musica. Ci ha provato con diversi gruppi, ma niente da fare. Castrocaro, due festival di Sanremo nella categoria giovani, ma sempre niente da fare. O meglio, tra una serata qua e una là, riesce a mantenersi suonando, ma il successo è tutta un'altra cosa. Va un po' meglio come autore, scrive canzoni per gli altri e i suoi testi hanno un discreto successo. Il motivo è molto semplice. Se per i colleghi si adegua a ritmi e melodie tradizionali e dal sapore melodico, il suo gusto è invece un raffinato mix di blues, soul e R&B. Musica black che in Italia nessuno capisce. È per questo che è partito per l'America, la sua terra promessa sognata fin da ragazzino. Fin da quando lui, Guccini e gli altri si immaginavano un filo sottile che univa la via Emilia con la Route 66. E quindi l'America era un po' tutto. Noi avremmo dato via qualunque cosa per poter andare in America, ecco. Questa era l'America che noi sognavamo, e lo sognavamo in questa piccola città, andando su e giù per questi portici, sognando in tutti gli anni 50 questo impossibile sogno americano. Zucchero a San Francisco incontra musicisti, contamina il suo stile, approfondisce un genere che ha amato da lontano e che ora può vivere da dentro, il blues. Poi torna a casa insieme alla Randy Jackson Band e realizza l'album da cui è tratto il singolo Donne, che concorre a Sanremo 85. La canzone viene attaccata dalla critica e ignorata dalla giuria e si piazza negli ultimi posti. Sembra un destino che si ripete. Ancora sconforto un'altra volta. Ma come succede spesso, invece, a una stroncatura degli intenditori corrisponde un successo di pubblico. Donne, L'album Rispetto, datato 1986, è pregno di atmosfere e sonorità rhythm and blues. E anche Zucchero si trasforma sempre di più, a partire dall'aspetto, in un vero e proprio bluesman. Risale a questo periodo la collaborazione con Gino Paoli, che compone con lui Come il sole all'improvviso, inciso anche in duetto con lo stesso Paoli e pubblicato come singolo. In particolare, una traccia del disco Rispetto, intitolata Nuovo meraviglioso amico, è dedicata al suo secondo magnifico incontro del destino. È il suo idolo, e diventeranno anche buoni amici. Lui è Joe Cocker. Quando il mio amico Zucchero me l'ha fatta sentire, mi sono emozionato. Un conto è avere dei fan, un altro conto è avere un collega che ti dedica una canzone così bella. Siamo diventati presto amici, abbiamo molto in comune. Ma è la passione per la stessa musica che ci lega, prima di tutto. Ti credevo però assopito. Joe Cocker non ha bisogno di molte presentazioni. Inglese di Sheffield, classe 44, sulle scene ormai da decenni ha una voce inconfondibile che rende speciale ogni cosa canti. Ma non è solo questo il suo talento. Ha anche una capacità di stare sul palco che conquista, con il suo modo di muoversi davvero bluesman, con gesti intensi che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Zucchero per tutto questo lo ama da sempre. Qualche maligno, per la verità, dice che oltre ad ammirarlo lo copi in modo minuzioso. Fatto sta che nell'87 esce il suo secondo album dopo Rispetto, che si intitola Blues, e Joe Cocker lo ascolta. È una folgorazione. Zucchero mi copia? Fa bene. Anche io copio da Ray Charles. Ho sentito Con le mani e Senza una donna e ho deciso che volevo fare qualcosa con lui. Io e questo bianco con la voce da nero dovevamo assolutamente suonare insieme. Sugar e il suo mito inaugurano una duratura amicizia fatta di tante collaborazioni con tre concerti. Insieme cantano, tra le altre, With a Little Help from My Friends, scritta originariamente dalla coppia Lennon-McCartney, ma della quale lo stesso Cocker aveva già fatto una cover nel 68, riarrangiandola con un sound R&B, eseguita per la prima volta sul palco di Woodstock. Se l'incontro con Joe Cocker segna l'approdo di Zucchero sulle scene internazionali, la conferma di accettazione da parte dei big arriva quando suona la fiera internazionale del disco di Cannes. Il bluesman di Reggio Emilia sfonda nel mercato estero e parte per il suo primo tour europeo, che lo porta in Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Danimarca, in Belgio. È il fatto di, più del successo, il fatto di essere stato accettato ed essere accettato dal gota musicale, sto parlando internazionale, vale a dire da artisti che sono riconosciuti in modo planetario, più che essere la star, essere stato accettato e sapere, non so, un Bono mi manda un messaggio dove mi dice: sono orgoglioso di aver fatto delle cose associate insieme a te, per dire, no? I'm very proud to be associated someone like you, capito? Oppure Peter Gabriel che mi dice: ho sentito il tuo ultimo album, great voice, great singing, great band, great sound. Senza una donna, come siamo lontani, senza una donna, sto bene anche domani, senza una donna, che m'ha fatto Forse anche per l'attaccamento alle sue radici, perché è stato cresciuto nella concretezza di una famiglia contadina, che Zucchero non si dimentica mai l'importanza di lavorare sodo. Anche quando il successo arriva, Zucchero ha la consapevolezza che senza impegno tutto può finire da un giorno all'altro. A volte sì, è capitato che magari alle 4 sei lì, sei insonne, ti viene in voglia e dici: ah, per esempio, Diavolo in me è venuta così, in cucina lì, perché non riuscivo a dormire, non so. Senza una donna è venuta anche quello in 10 minuti, perché sentivo già l'odore di separazione. In anticipo, Overdose d'amore, venuta così mentre tornavo a casa dal mare, lì in bicicletta. Ma a parte alcuni esempi, alcuni pezzi che sono nati proprio in 10 minuti, gli altri c'è del lavoro. Cioè, sì, si aspetti l'ispirazione. La consacrazione definitiva di Zucchero avviene con l'uscita di Oro, Incenso e Birra, che racchiude Overdose d'amore, Madre dolcissima e uno dei suoi capolavori, Diamante, su parole di De Gregori, dedicata a sua nonna. Dopo tanta gavetta, il successo internazionale tocca vette inaspettate. Zucchero a New York incide Dune mosse con Miles Davis, suona per tutta l'Europa con il grande Eric Clapton e all'Arena di Verona duetta con Ray Charles, che per lui ha parole a dir poco lusinghiere. Questo ragazzo è così talentuoso, una voce incredibile, probabilmente uno dei migliori artisti blues con cui abbia mai lavorato. Blues, R&B e poi improvvisamente la folgorazione per la lirica, un genere che fino a poco tempo prima mai l'ex ragazzo di Reggio si sarebbe sognato di sfiorare. È un brutto periodo per lui, è fresco di separazione da sua moglie e se ne sta al mare da solo con il suo cane, consolandosi per quel che può con le romanze di Puccini. Naturalmente con sé ha l'inseparabile chitarra. Non si sa mai, un momento di ispirazione, una melodia partorita da tanta riflessione. Succede proprio questo. Dall'incontro tra gospel e lirica, con qualche vago eco pucciniano, nasce Miserere. Quando va dai produttori prova imbarazzo nel proporre questo brano così diverso da tutti gli altri e lo tiene per ultimo. Ma loro, che lo conoscono bene e sanno che ha sempre qualcosa nel cassetto, lo convincono a fargliela sentire. Ma tu sei matto quando l'ha sentito. È come avere una Ferrari nel garage, tenerla nel garage, poi sono arrivati gli internazionali. Vabbè, dico, allora l'unica cosa che può giustificare che la faccio se c'è Pavarotti, il tenore per eccellenza. Lui volevi. E sarà proprio Luciano Pavarotti ad essere il terzo magnifico incontro del destino di Zucchero. Zucchero vuole Pavarotti, nessun altro, se non lui. La sfida ha dell'impossibile. Come può il re della lirica, stimato in tutto il mondo per la sua voce unica, prestarsi per un brano che pur tendendo a una melodia gospel resta pur sempre pop? Come può il grande tenore accettare di mettersi in gioco in un ambito che non è il suo, rischiando anche di non essere all'altezza del rock? E poi, diciamocelo, non ha tempo con tutti i concerti che ha già in programma da un anno per l'altro. Ma Fornaciari non è uno che molla e quando decide una cosa, quella deve essere. Manda i suoi produttori dritti in America perché il maestro è a Filadelfia per un concerto. Anche qui è un no. E così si fa venire un'idea. Indice un'audizione per registrare il brano che poi andrà a portare lui stesso di persona a Pavarotti. Sono molti cantanti, alcuni più bravi, altri meno. Alla fine viene scelto Andrea Bocelli ed è con la demo incisa da lui che Zucchero si presenta a pranzo a casa di Pavarotti. Era, mi ricordo, febbraio. C'era il camino acceso e io gli ho detto, ma Luciano, volevo chiederti una cosa. Cioè, sì, dice, ho sentito quella cosa, sono venuti a Filadelfia, ma guarda, bella, ma io gliel'ho detto, non lo posso fare, mica perché sei te, anzi, io ti stimo, però io non saprei come fare, non l'ho mai fatta, bim bum bam, dico. E gli ho detto, allora questa canzone non ha senso che esista senza di te. No, ma cosa? Boom, io la butto nel fuoco. Scena drammatica. Pavarotti che si dispera per una canzone persa. Zucchero che finge di aver compiuto il gesto estremo. Naturalmente aveva altre 5 copie. Ma il maestro ancora non lo sapeva e il 19 agosto, unica sua data libera, si incide. I magnifici destini. Ai Magnifici Destini siamo all'inizio degli anni 90 ed è ancora una volta l'Emilia a segnare il destino di Zucchero grazie all'incontro con il maestro Pavarotti che per lui canta Miserere. Non è stato facile convincerlo a dirla tutta. Ci sono voluti un pranzo, una lunga chiacchierata e qualche bicchiere di rosso. Alla fine il maestro ha accettato di misurarsi con un brano che rispetto all'opera era tutta un'altra cosa, convinto anche dalla registrazione incisa da Andrea Bocelli. Non potrebbero essere più diversi Zucchero e Pavarotti. Eppure Miserere crea tra loro una complicità unica, che Sugar non fa fatica a definire fratellanza. Oltre al piano umano, è anche l'inizio di una collaborazione duratura che trova il suo apice nei concerti evento Pavarotti and Friends. Zucchero canta una splendida versione di Va Pensiero, proprio su invito di Pavarotti. Continua intanto anche il rapporto con Andrea Bocelli, per il quale Zucchero scrive diversi brani dell'album di debutto, Il mare calmo della sera. Una persona a cui devo molto, a cui il mio destino è molto legato. Io ho cominciato con una sua canzone. Sto parlando di Zucchero Fornaciari. Can't you see you're everything I hoped for? Yeah, everything I need. Per Zucchero, l'inizio degli anni 90 rappresenta un periodo nero dal punto di vista personale, perché si è appena separato, vive da solo, con il suo cane e la sua chitarra, tormentato da mille domande. Rispetto alla carriera, però, lo stesso periodo è davvero fertile. Oltre a Pavarotti, infatti, arriva il suo quarto magnifico incontro del destino. Grande star internazionale, inglese doc, capelli folti e riccissimi anche oggi, lui è Brian May, lo storico chitarrista dei Queen. Lui è autentico, genuino. È il bianco con la più bella voce nera che abbia mai sentito. Zucchero viene invitato, unico italiano, a cantare al Freddie Mercury Tribute Concert. Ci va e interpreta Las Palabras de Amor, dedicata all'indimenticabile leader dei Queen. Per Brian May è un'emozione infinita, al punto che Zucchero riceve una richiesta che mai si sarebbe aspettato nella vita. Brian May mi chiamò, io ero separato da poco, quindi abitavo in una casetta sul mare di legno che mi avevano prestato ed ero solo con il mio cane, piuttosto depresso. Mi arriva questa telefonata alle 3 del pomeriggio dicendo Ario Zucchero, dico sì, chi è? Sono Brian May. Chissà che scherzo vuol fare questo. Invece si è rivelato uno dei miei più grandi fan fino dai tempi di Senza una donna, poi era uscito Oro, Incenso e Birra, che lui considera ancora uno dei dischi migliori della sua discografia. Piovono baci dal cielo, leggeri come fiori di melo, gocce di mercurio dal cielo. L'album Spirito Divino, trainato dai singoli Per colpa di chi, Così celeste e Il volo, vende più di 3 milioni di copie e riceve il disco di diamante. Ma se l'Italia è il primo amore del cappellaio matto di Reggio Emilia, l'America è nel suo cuore da sempre. Invitato dall'attore Dan Aykroyd, si esibisce alla mitica House of Blues in una serata di gala per la celebrazione del 46esimo compleanno di John Belushi. Forte di un successo sempre più internazionale, Zucchero è il primo artista italiano che appare sulla The Faber Companion to 28th Century Popular Music, la più autorevole enciclopedia della musica moderna del XX secolo. Diventa grande amico di Bono Vox e degli U2, che dopo averlo incontrato lo bombarda di messaggi che raccontano la sua stima per lui. Capelli da leone, voce da leone. Le star internazionali con cui collabora sono moltissime. Brian Adams, Jeff Beck, Elvis Costello, Peter Gabriel, Sting, Sinead O'Connor, Iggy Pop, Paul Young e poi ancora Macy Gray, Tom Jones, B.B. King, Mark Knopfler, Brian Wilson, Sting, Yusun Dur. Zucchero è l'unico cantante ad avere partecipato a tutte le edizioni del Mandela Day. Blue Sugar, Shake, Fly, Chokeback. Zucchero non sta fermo un momento, tra un disco, una tournée e una collaborazione con qualche amico sparso per il mondo. Pochi giorni prima della partecipazione al concerto benefico per la sua Emilia terremotata, ha annunciato l'uscita del nuovo album. Sarà, dice, un sogno che finalmente è riuscito a realizzare, cioè un disco di collaborazioni con artisti cubani. La Sesión Cubana, così si chiama, è uscito. Contiene riarrangiamenti dei suoi brani vecchi e brani inediti, partoriti nell'atmosfera dell'Havana tra un live improvvisato, le foto del Che appese ovunque e qualche sigaro. È un pubblico che io amo perché è dignitoso, è una grande cultura e nello stesso tempo, nonostante le difficoltà, così arriva in modo positivo. Ecco. Ti dà l'impressione di sentirti sempre a casa tua, come se fosse un tuo fratello da sempre, un tuo amico. Nel 2013 è previsto un nuovo tour mondiale per festeggiare 30 anni di carriera. Zucchero riparte ancora una volta e ancora una volta, come sempre, ritornerà a casa. Io ho fatto in 30 anni molte cose, ne farò ancora, ma insomma sarei già contento così.